siamo alle ore 26 minuti primi, siamo nella giornata di martedì 15 di luglio. Dopo tanti cambi per tutti i suoi innumerevoli impegni, questa sera, ecco. oltre a, vedi che la tua voce si sente, cara Claudia, oltre a Marco Gravelli con voi a darvi il benvenuto, la buona cena, il buon inizio di questa serata, il buon inizio di Linea Rock. Che emozione, quindi, che emozione grandissima. Io quant'è che non parlo in radio? Dal 31 maggio, sì, in effetti me la ricordo molto bene quella data. E che bello, Gravelli, è bellissimo rivederti. Beh, bellissimo è un parolone, però esatto. Ma ti trovo in forma, Guarda, puoi prendere per i fondelli Giannito, no. Lo so che sarà una puntata così, conoscendoti. Ti dico che sei bello. Va bene, allora andiamo per scaletta, nel senso, ricordiamo gli amici e le amiche che vogliono contattarti, perché questa sera è un po' la tua puntata. La email è diretta@radiolombardia.it, l'SMS è 339-266-3825. Poi salutiamo gli amici della Rock Family che stanno già scrivendoti, sì. Puoi interagire naturalmente con loro, poi arriveranno anche mail e SMS, insomma li saluterai tutti quanti. Come va con i nuovi contatti, Gravelli? Vanno. Hai fatto casino i primi giorni, no? Molto casino, sì. Sì, non preoccuparti. Il famoso 3-3, no, non dargli gli altri numeri. No. Stavo dando un'altra mail e basta. Per il resto il nome della radio non l'ho mai confuso. Perché tu sei un professionista. Cerco di esserlo, Claudia. Tu lo sei. Tu sei famoso per questo. Famoso, insomma, lasciamo perdere. Iniziamo con la musica. Naturalmente sì. La presenza di Claudia ha caratterizzato quella che sarà la scaletta, quindi mettete a letto i bambini. Ci sarà un po' di corrente elettrica più del solito a livello. Ma eri un po' spaventato oggi quando ti ho portato la famosa lista. Ho visto un po' una reazione così. Ero preparato, Claudio, mi aspettavo. Vabbè, scusa, ma il bello di ospitarti è che ognuno porta ex colleghi che caratterizza ognuno... il programma. È così, è giusto così. Va bene? Va bene. Eccolo, Gravelli, va allora, bene, iniziamo... come fai giovane, va bene? Iniziamo con una coppiata, poi magari di ognuno ci puoi svelare qualcosa. Guarda, ne ho cose da raccontare, anche perché io in realtà da quando è successo il fattaccio, insomma, a Rock FM ho iniziato con il mio altro lavoro e non mi sono fermata un secondo. Quindi ho avuto sì modo per pensare a tante cose, però non mi sono fermata, ho lavorato tantissimo e... Bene così, hai raccolto tanti aneddoti da dire su questi personaggi legati al mondo del rock, perché Claudia ha effettuato tutto quello che è stato l'allestimento, seguire tutte queste rockstar nei vari concerti, nei vari festival, e sarà così anche per le prossime settimane, ad esempio Metallica, altre ancora, sì. E ce li racconterà. Lo faccio da 12 anni, lo quindi so. Non è una novità, però... Diciamo che magari non tutti lo sapevano. No. Anche se qualcuno qualche volta ha avuto un dubbio, perché magari mi trovava in cassa crediti, mi trovava a dare direttive, ma perché questa dà un po' di ordini, perché questa fa quello, e adesso è ufficiale, insomma. Vabbè. Okay. Va bene. Allora, la copiata è Black Label Society con Ozzy Osbourne, il pezzo si intitola, ci riesci Mr. Magoo a vedere il piccolo, Ma non è questione di essere Mr. Magoo, è questione che questo schermo dov'è? Allora, schermo il titolo è quello che ho scelto io? Guarda, le scelte tutto te, andiamo. Devo soltanto mentre la Claudia sta mettendosi a posto con il seggiolino, ce l'hai fatta? No, ce l'hai fatto apposta a prendermi lo sgabello rotto così, con la webcam. Non usare il termine sgabello. Scusami, sedia. Cos'è una... una sedia d'ufficio, ecco. Lo so che tu sei abituata, sì, guarda, tantissimo, lo so, anche perché venerdì poi lo sveliamo, ci spetta una, la solita serata insieme, quindi il solito viaggio verso Pisa, quindi mancherai, contentissimissimo. Dai. Allora, sì, vabbè, ma parliamo invece più di me, parliamo di quello che è la musica. Che vuoi. Allora, prima della prossima band, che è una novità, sono molto molto giovani, qualcuno comincia già a chiederti notizie su quello che è stato il Gods, quindi qualche aneddoto, eccetera. Quindi, hai fatto quali concerti in questo periodo? Da Jonathan Davis acustico? Allora, sono partita, sì, da Jonathan Davis in versione acustica, ha riproposto le sue canzoni, quelle della colonna sonora della Regina dei Dannati. Ti ricordi che già lui ai tempi aveva intenzione di fare questi concerti, però tra una cosa e quell'altra, ovviamente l'impegno principale con i Korn, non c'era mai riuscito. Fare. Adesso l'ha fatto anche perché i Korn, bene o male, sono un po' in vacanza. E quindi lui ne ha approfittato per questi mesi, insomma, ha preso, è partito in tour, è arrivato in Italia nel mese di giugno al Fillmore di Corte Maggiore in provincia di Piacenza, locale molto carino perché è un ex cinema, e c'è stato il concerto, è strano perché lui è un personaggio veramente incredibile, secondo me a livello fisico ha anche qualche problema, perché non lo so, però... Dici? Sì, perché per carità è ancora giovane, tutto, in formissima, però ha diversi acciacchi, io pensavo di averne diversi. Guarda, ha superato i 30? Sì, e allora sì, basta, sì. Superi i 30, tra almeno per noi maschietti, gli acciacchi arrivano. Poi sì, ma anche per le donne, guarda, posso confermare in questo periodo. E tra l'altro la prima domanda di Jonathan Davis è stata, ciao, allora come va? La radio? Mi ha chiesto ovviamente diverse cose sulla nostra. Sapendo che tu lavori in radio. Sì, ho detto, guarda, sono successe un po' di novità, vabbè, ma quelle ovviamente non gliele ho raccontate, anche perché ho chiesto, ma tu come stai? Ma raccontami invece tu cosa stai combinando? Allora, ha portato in giro per l'Europa queste canzoni della colonna sonora della Regina dei Dannati. Qualche canzone dei Korn anche in versione acustica, alcuni della sua band tra l'altro sono gli stessi dei Korn però senza maschere, perché ultimamente i Korn avevano pure preso loro un po' questa mania, un po' la Slipknot se vogliamo, con diverse maschere. Infatti è arrivato uno di loro, mi ha detto, ciao, ti ricordi di me, sono il maiale. Ho detto, no, guarda. Lui è il coniglio. Ho detto ok. E quindi insomma con questa band lui tutto il tempo seduto su questa poltrona, una bellissima poltrona, insomma tutta una scenografia abbastanza particolare, spesso e volentieri non riesce a riproporla come lui vorrebbe, poi dipende ovviamente dai locali, però abbastanza particolare se vogliamo il concerto. Tornato subito in America tra l'altro dopo l'Italia per registrare l'album solista, e nel periodo autunnale tornerà, insomma l'intenzione è quella di tornare in Europa e anche in Italia per fare di nuovo insomma altri concerti su questo sì. Genere sì. Visto che hai parlato di lui e hai citato poi la tracklist su cui si è basato il concerto, hai scelto un sì, brano? Sì, la mia preferita. Okay. Tra l'altro mi sono complimentata proprio con Jonathan Davis, gli ho detto, guarda, la colonna sonora è bellissima, gli ho detto, però scusami, il film è veramente terribile, e lui è d'accordo. Spesso su questa... Spesso capita. Sì, sì, sì, e lui è assolutamente d'accordo, dice, io mi sono sbattuto, ho scritto una colonna sonora secondo me meravigliosa, perché il libro, La Regina dei Dannati di Anne Rice, è un capolavoro, io adoro Anne Rice, e li ho letti tutti i suoi libri, e mi dice, però insomma, quando abbiamo guardato il film, tra l'altro Jonathan Davis ha recitato una piccolissima parte. Non cadermi subito, ci abbiamo fino alle 21:30, Claudia. Sì, tu l'hai fatto apposta. Sì. E ha recitato questa piccola parte, però insomma il risultato finale, ripeto, del film non è stato eccezionale. La colonna sonora, ripeto, molto bella. Questa è la mia preferita, e la preferita anche di Jonathan Davis. La canta Chester Bennington dei Linkin Park. Questo è System. Why won't you die? fault. So soon to break out. I can't relate to a happy state. Feeling the blood run inside. Why won't you die? Tutti primi nello spazio di Linea Rock, questa sera ospite la voce femminile di Claudia, mia collega di Rock FM, che sto ospitando di mercoledì in mercoledì, cosa che invece non ha potuto essere lo scorso mercoledì, la stiamo recuperando e l'abbiamo qua con noi questa sera. Chi manca adesso dei domani, domani ci sarà Maurizio Faulisi, okay, che lui rispetta quello che è appunto il mercoledì. Lunedì prossimo... Non mi stai facendo pensare che non sei esempio, di mercoledì? No, ad esempio, no, no, Max no, De Rio non potrà di mercoledì, ci sarà lunedì prossimo. Che è anche il suo compleanno. Ah, che carini, abbiamo fatto anche i corretti. E il 30 si chiuderà con Matthew, Chuck Bird, Luca Mattioli, lui e quattro personaggi. Ma poi ci saranno altre ospitate? Ha intenzione di ospitarci nuovamente? O... Ah sì, nella casa di cura, poi speriamo tutti quanti. Ma guarda, io con tutti gli attacchi fisici che ho in questo periodo, mi sa che sono tanto così dall'essere. Sì, sì, tu ovviamente a vederti ormai ci sei. Ho quindi... già la stanza prenotata da tempo, cara Claudia. Ma se è una matrimoniale, vengo volentieri va con bene, te. Va bene, lo so, che ci provi sempre. Invece... io. Parliamo del Gods of Metal, visto che una delle band giovani, nuove, che hanno partecipato al Gods of Metal sono stati Black Tide, però che della, sono stati due o tre giorni? Non mi ricordo più. Allora, Gods of Metal quest'anno è stato di tre giorni. Di tre giorni, sì. Ecco. Loro hanno suonato il primo giorno, quello in cui gli headline erano gli Iron Maiden. Iron Maiden quest'anno un po' hanno... Deluso? No, non no, dirmelo. No, assolutamente deluso no. Questa è una garanzia. Ma no, Iron Maiden si sa, una garanzia per un ottimo show, che però io purtroppo non ho visto perché ero barricato in un ufficio, quindi però mi hanno rispetto agli altri anni, si vede che con il nuovo personale hanno bloccato qualsiasi tipo di accesso al backstage, insomma dal loro arrivo alla loro partenza non si poteva passare da nessuna parte tranne pochi eletti che però ovviamente dovevano lavorare però lo show pare sia stato bellissimo, ti ripeto, io non ho visto nulla, ho sentito tutto però ma tu al solito stavi giocando a carte no, guarda magari io sono famosa per giocare a carte. Infatti, quando ha 5 minuti liberi, guai, una partita a scala 40 non si nega mai a nessuno. E purtroppo a Bologna, non, anche perché Bologna durante la settimana, cioè durante i 3 giorni del Gods of Metal, che però per noi è stata una settimana e passa di lavoro, è stata la città più calda in assoluto in Italia. C'era una temperatura mostruosa. Molte band, per fortuna nostra, hanno preferito rimanere sui loro tour bus e si sono visti veramente pochissimo. Ad esempio Ingrid Malmsteen è stato tutto il tempo sul bus e non si è visto, per fortuna, anche perché girava queste voci riguardo ad altre sue presenze, no, altri festival europei, e non aveva trovato magari il vassoietto di frutta con i cioccolatini, allora spaccava il camerino. Ah. E noi eravamo un po' terrorizzati al suo arrivo. La richiesta più particolare, che so, magari un determinato cibo che è difficile trovare, piuttosto che l'asciugamano di questo colore che è difficile trovare, oppure non ci sono state queste richieste stralunate? Beh, allora, Metallica rigorosamente asciugamano. Metallica ne parleremo dopo. Allora, ti posso dire che gli Avenged Sevenfold, visto che sono dei bambini piccolini, ci tengono molto al loro fisico, loro mangiano veramente molto bene, quindi tutte verdurine, salsine, proprio calorie zero. Sì. Malmsteen ci ha chiesto due phon. Due phon? Sì, per i capelli. Capelli? Ah, esatto. Come faceva freddo, no? Però poi non li ha voluti, fortunatamente. Non male. Perché... Ma bombole d'ossigeno questa volta? No, niente, no, di queste particolari. Quest'anno non è arrivato il no oxygen, no, esatto. Show, no. È arrivato l'anno scorso. Con i corna, quello. No, no, invece, questi ragazzini nuovi sono stati... Ma guarda, questi ragazzini nuovi io... T'hanno colpito. Adoro. Sì, parecchio. Li avevo già visti di supporto ai Bullet for My Valentine recentemente. Sono tornati all'interno del Gods, hanno suonato Poveracci, tipo l'1 di pomeriggio, però sono stati bravissimi, sono giovanissimi, il cantante pensa che ha 15 anni e gira in tournée col papà. Il padre ha mollato praticamente il lavoro, qualsiasi cosa, per seguire il figlio in tournée, ed è un personaggio buffissimo perché è talmente orgoglioso del figlio che durante i concerti, allora il figlio sta sul palco, il padre davanti, davanti a lui che mentre suona, più o meno, e riprende tutto il concerto, e secondo me lui si sente la vera star dell'esibizione, serata. Ma lo vedi perché è proprio orgoglio, cioè, di papà. Questo è mio figlio, l'ho fatto io, eccetera. Però il figlio ogni tanto mi ha detto, sì, vabbè, bello, eh. Allora, tu immagina la mia situazione, sono in una band, stiamo riscuotendo un discreto successo, insomma, vorrei anche divertirmi, e invece no, sempre mio padre in mezzo ai maroni, ai maroni, infatti. Però sono talmente piccini e dal vivo sono molto molto bravi e allora, secondo me bisogna tenerli d'occhio questi Black Tide, si l'album è molto Tide, bello. Esatto, sì. Album d'esordio, abbiamo scelto questa canzone che è la traccia numero uno, numero quella uno, che apre l'album, quella che è stato anche il primissimo singolo proprio di quest'album. Un po' di buon metal in questo caso, in questa sera Linea Rock, Black bravi, Tide, bravi, Shockwave. We'll be right back. Cari automobilisti, basta insultarsi, basta fare a botte. Fino al 20 luglio siate amici. Perché se porti un amico da Euronics e acquistate almeno due prodotti in promozione, avete subito fino al 10% di sconto. Offerta contro l'abbandono del cliente e dei suoi finti amici, valida fino al 20 luglio. Vedi regolamento. Il cliente ha sempre Euronics. Meteo Lombardia, in collaborazione con il centro Epson Meteo. Temperature attorno agli 11 gradi per questa sera a Stoccolma. E ora per la Lombardia, linea da Alessandro Perotto. Buonasera, il bel tempo proseguirà per tutta la notte anche nella giornata di mercoledì, dove avremo nuovamente cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la Lombardia. Le temperature tenderanno a guadagnare altri 2-3 gradi sia nei valori minimi che nei valori massimi, che significa che supereremo i 30 gradi nelle principali località di pianura, con punte anche intorno ai 32-33 nelle principali città. I venti continueranno a rimanere deboli. Questo è tutto, ancora una buona serata. Stiamo seguendo l'uomo. È in auto? Sta scendendo, parlano. Si toglie la camicia, indossa una t-shirt rossa. Non capisco, abbandona l'auto. Ha una moto. Che moto? Una Ducati, se ne va. Seguilo, seguilo. Ok. Attenti, potrebbe avere anche un cappellino. Vivi l'emozione. Fermati alla Shell e riparti con Ducati. Alla Shell, in vendita abbinata fino al 30 settembre 2008, avrai la fantastica t-shirt o il cappellino Ducati. E fino al 10 agosto puoi vincere un esclusivo Ducati Monster in edizione speciale Shell V-Power. Iniziativa valida presso tutte le stazioni aderenti. Dettagli su fermatialashell.it. Shell. Made to move. Mi dispiace dirtelo così, ma ieri alla festa in spiaggia ti ho tradito. Perdonami, Sara. Ok, inviamolo. Marco, Giuseppe, Mirko, Antonio Parcheggio, Roberto, Gigi fratello di Luca, Luca il fratello di Gigi. Dillo con Maxi Estate di TIM. 500 SMS, 500 MMS, 500 minuti di chiamate verso i TIM. Scatto alla risposta 19 centesimi. Attivabile fino al 31 agosto con 13 euro. Per info vai su TIM.it. Giuseppe, Filippo, Dimitri. E chi è? Va bene, il dubbio mandiamoglielo. TIM, tu senza confini. We'll be right back. Sleeping Death. Abbiamo citato i Metallica, sicuramente questa sarà una delle canzoni della loro scaletta. Il Black Album, guarda, le fanno tutte. Le fanno tutte, suoneranno la prossima settimana, il 22 di luglio. Ho visto qualche scaletta di alcuni concerti, stranamente, solo vecchi classici. Stranissimo che ad esempio di St. Anger, di Reload non fanno niente. E forse da una parte, nulla... da una parte va bene. E forse nulla nemmeno dell'album nuovo che deve uscire. Non so. Non te lo so dire. Quindi è un po' come i Kiss, un po' come tutte le band, gli stessi Iron, insomma si ritorna e si rifà quello che li ha portati a successo alla fin fine, perché dicono che la gente vuole quello, e forse hanno anche ragione. Sicuramente la gente vuole quello, perché ultimamente magari alcune band hanno fatto un po' così, non hanno reso, quindi si torna sempre indietro. Forse si può andare a monte che tutte queste band, ma proprio tutte di più, hanno quasi ormai i 30 anni di carriera, e quindi hai dato già tutto, il meglio di sé l'hanno già dato, quindi a livello di fantasia eccetera è inutile giriamoci intorno, non si riesce più a produrre o a fare un album superlativo, buono magari sì, ma superlativo, perché alla fin fine hai dato già il massimo all'epoca, già addirittura col primo Kill 'Em All lo hanno già dato quasi il massimo. Vabbè. Quindi Gravelli, tu sei l'unica icona rock che comunque riesce a dare il presente. Guarda, lasciamo perdere. Quindi qualcosa su Metallica, tu hai già visto il Rider, cosa da mangiare questa volta? Tutti sani, tutti belli, precisi. Sì, mangiano dire? Bene. Perché di solito mangiavano tutti delle carciofate, non lo so. No, però ad esempio magari molte band gliene può fregare di meno, no? Nel senso, basta che gli fai un bel vassoietto, frutta, verdura, fettati così. Frutta, maionese. No, affettati quelli belli, non... E invece loro il proprio... culatello, insomma. Ecco, chi? Tu? Culatello, no. No, loro mangiano bene, mi sembra. Cioè, c'è una preparazione per ogni data di cosine buone da mangiare. Quindi avete un cuoco apposta, uno chef... ho capito. Certo. Mentre invece i poveri Down, quelle due patatine, vanno benissimo così. Down, che sono una delle band che suoneranno. Ci sono i Down e gli Sword. Okay. Si parlava di Machine Head, invece non ci sono i Machine Head a questo giro, perché torneranno più avanti, poi nel mese... mi ero scritta un po' di cose, ovviamente le ho lasciato di là. Va bene, adesso diamo il tempo di andarle a prendere. Tu vieni a vedere Metallica? Guarda, come faccio a venire a vedere Metallica? Sono qua in diretta, quindi oggi mi hanno proposto anche un'intervista con i Metallica. È vero, perché Bologna. In occasione presenteranno un nuovo album. Esatto. Una mini conferenza stampa. 30 minuti mi sembra. Sì, 30 minuti. Quindi vengo lì per registrare la conferenza stampa, aspettiamo il disco e ce lo ascoltiamo, dai. Okay. Tra l'altro il primo singolo dura 8 minuti, per la tua grandissima gioia. Beh, anche St. Anger era sui 6 minuti, Quindi St. Anger non si poteva ascoltare. Vedremo un po' questo nuovo. Sono molto curiosa. Della prossima band nulla in cantiere, purtroppo no. Ovviamente no, però il cantante progetti arriverà... paralleli, esatto. Down ci sarà lui. Anselmo, Cerex, Belli come il sole, l'ultimo concerto milanese secondo me è stato bellissimo. E io ti dico la verità, sono molto contenta nel rivedere Metallica e tutto, però sono più contenta nel rivedere Down. Allora, questa volta Phil Anselmo lo andiamo ad ascoltare con i Pantera, una canzone particolare. Molto bella, chiude un album bellissimo, un album che ai tempi io ho sottovalutato, ti dico, Far Beyond Driven, dopo un classico come Cowboys From Hell e Vulgar. Insomma, due album bellissimi, avevo accolto questo Far Beyond Driven un po' così, e invece riascoltandolo è proprio bello, ci sono canzoni come Becoming, Five Minutes Alone, insomma un po' i tuoi classici nelle tue fantastiche serate in discoteca quando fai ballare la gente. Con te Claudia, sempre con te. Questo pezzo non l'hanno scritto loro, ma è una canzone dei Black Sabbath. Ozzy. Volevo dire Ozzy. Ozzy spopola, si intitola Planet Caravan. Yeah. pomeriggio e riff finale con queste percussioni, un'atmosfera molto particolare creata dai Pantera nella loro rivisitazione di questa Planet Caravan dei Black Sabbath da loro rifatta. Ora si cambia situazione musicale per le scelte di Claudia, che è anche grande amante di personaggi della New Wave, della diciamo spazio dark inglese e di Cure, Depeche Mode, Siouxsie, eccetera. Quelli stanno scrivendo a te, quindi non prendi tu l'iniziativa di salutarli, io aspettavo, però giustamente... No, hai ragione, però sai che a livello tecnico sono sempre stato un disastro, e a questi messaggi, gli sms, però insomma... Puoi leggerli e dire, ciao, mi ha scritto questo, c'è riuscito Mox, quindi non vedo... No, perché... non mi dire così, non mi dire... È stato preciso. Questa è una provocazione bella e buona, non mi sai che dire lui che non è molto, esatto, con il mondo di internet, eccetera, però... Quindi vai, spazio per i saluti. Allora, dai. Sergio 130... vedi, sono già incartata, Sergio 136 da Milano, saluto Pux, poi 16, cara, un sacco di gente che scriveva, insomma, anche a Rock FM, no? Un bacione anche al Rinnegatore, saluto anche qualcuno che mi dice, io da grande vorrei diventare come te. La Sastar si dice a Milano, ecco, però... Ecco, saluto Iza, grazie Gravelli, sembra una buona parola. Poi Cisco, un bacione, sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando via sms. Mirka, ecco, dice, da grande volevo diventare come te, ormai non lo, mi sa che non infatti, ha cambiato idea. Poi. E poi ovviamente tutta la Rock Family, che è sempre super mega attiva. Bene. Eccoli, adesso vedrò di chattare un attimo con loro. Allora ritorniamo alla musica, dicevo, cambiamo situazione e andiamo a un David Bowie molto particolare qua. Qui torniamo veramente, tu forse non eri nemmeno nato, vedi te, o già andavi in discoteca con la tua macchina cabrio a broccolare, no, avevi non mi ricordo sei... non mi ricordo, Claudio. Che belle quelle immagini del Gravelli in giro con la macchina cabrio a broccolare, probabilmente bronzelle. Era un'altra persona, che io non ho mai avuto una cabrio in tutta la mia vita, non lo so, non l'ho mai avuta, però mi hai raccontato turbo e vari, ecco, però, quando vabbè. Andavi a ballare con i tuoi completini. Senti, torniamo alla musica. Ti vergogni un po'. No, non vorrei aprire altre pagine. Io ho sempre parlato di questo film perché mi è piaciuto tantissimo il libro, mi è piaciuto tantissimo il film, anche se è molto cupo e molto pesante, però la colonna sonora era ad esempio bellissima. Sto parlando di Christiana Efeno, i ragazzi dello Zoo di Berlino, colonna sonora meravigliosa, David Bowie, no, che ogni tanto mi sgridate, e insieme a Brian Eno hanno scritto dei pezzi meravigliosi, e questa è una delle tue preferite. Sì, sì. Allora. No, in realtà è stato molto difficile scegliere la canzone, però questa forse è la più allegra rispetto alle altre. Quello è vero. Questa Don't Look Back in Anger. You know who I am, said. The speaker was an angel. He coughed and shook his crumpled wings, closed his eyes, moved his lips. This time we should be going. Yeah. Rock. Disease, Depeche Mode. Teniamo a sottolineare che tutte le scelte musicali della scaletta di questa sera sono state effettuate dalla nostra Claudia, che è qua con me a condurre il programma ancora bello, per... Come ai vecchi tempi. Ai vecchissimi tempi, cara Claudia. Ti ricordi quando andavamo in onda insieme? Tutto, quando balbettavi perché pioveva, mi ricordo di tutto, guarda. Ti immagino in questi giorni con la grandine cosa ho creato. Hai combinato, eh? Però era bello andare in te, cioè, come d'altronde in questo momento, però ai tempi non avevo l'esperienza di 15 anni. Ed era bello andare in onda con te perché non mi facevi parlare. Tu iniziavi il programma con... Allora benvenuti, allora siete con... Urre, c'è con noi Claudia. Ciao. Ciao. Allora Claudia, raccontaci qualcosa. Io in realtà... Bene, allora, perfetto. Allora Claudia, continuiamo con la musica. Adesso invece... Ma sapevo che avevi le qualità, vedi. E non mi lasciavi parlare. Forse dicevo sì, no, ciao, forse. Però... Però così, tu bello così. Tu sei bello così, quasi come Courtney Love. Courtney Love, una delle tue cantanti preferite. Questa canzone è bellissima. Old Age. Someday she will die alone. What was she for Valentine? Lord, forgotten concubine. Someday she will die for no one. She seems to me to know all the glitter. Just remove the hateful tissue. We all know her age is endless. She seems to me to know all the glitter's sour, all the lies in her place. Jesus saves. No, that no, that age, oh. siamo entrati ufficialmente negli ultimi 30 minuti a nostra disposizione. Godetevi quindi questa serata con la voce di Claudia, questo tipo di proposta musicale. Molto... Mi stavo godendo questa Face esatto, This Life, molto poi tu l'hai aggressiva, interrotta un po' perché come al tuo solito. Non ce la facciamo con tutte le altre canzoni che hai messo, purtroppo tempo, le cose da dire ne abbiamo. Soprattutto... Quante volte hai passato gli In Flames in questo periodo? Ah, mai. Mai? Mai. Ah, quindi dovevo venire io a Radio Lombardia. Dovevi venire per passare tu. Sì, sì. Però ho preparato gli Slipknot, quello sapevo, che quello nuovo degli Slipknot per questa sera. Bravo, bravo, okay. Bravo, Gravelli, però, bravo. Visto bravo. Che il tempo stringe, volevi parlare, spiegare cosa è successo a Bologna, cioè cosa hanno a Milano, all'Evolution. Niente. No, una buona notizia per i fan degli In Flames che probabilmente sono un po' così dispiaciuti, visto che l'esibizione all'interno dell'Evolution è saltata. L'unica esibizione che, ahimè, è saltata è stata quella degli In Flames. Però insomma chi c'era ha visto l'acquazzone, la grandine che in 20 minuti ha causato dei danni incredibili e quindi insomma i tecnici non solo italiani ma anche degli In Flames hanno fatto il possibile per cercare di riparare i diversi danni, un lavoro di mezz'ora forse, però poi alla fine non è stato possibile perché diversi mixer erano partiti. Adesso io tecnicamente non capisco cosa, non ho capito cosa era successo, però insomma era veramente impossibile fare quel concerto. Più che altro mi ha stupito e un po' così ci sono rimasta male per la reazione di molti, perché una volta annunciato appunto il fatto che il concerto non si sarebbe tenuto, molti hanno iniziato a tirare bottiglie sul palco, bottiglie con dentro pietre, sassi, è veramente volato di tutto sul palco, prendendo anche diversi tecnici che poveracci stavano facendo il loro lavoro. Capisco, ho visto anche gente arrivare da addirittura delle ragazze arrivate dalla Grecia per gli In Flames in lacrime, dei ragazzi che hanno fatto diversi chilometri per il loro concerto, però insomma non è colpa di nessuno quello che è successo, purtroppo ripeto, una grandinata che in 20 minuti ha causato dei danni irreparabili, sì, incredibili, chi c'era l'ha visto, insomma non è che la gente si è inventata, ah no gli In Flames non suonano, ciao, quindi purtroppo, però la buona notizia è che il 21 ottobre gli In Flames torneranno a Milano e chi ha il biglietto dell'Evolution della giornata appunto del 12, entro un tot di giorni potrà godere tra virgolette di uno sconto. Andate sul sito liveinitaly.com e lì ci saranno le diverse modalità, anche perché questo sconto verrà effettuato entro un tot di giorni. Bene. Quindi andate sul sito e quindi io mi sono chiesto, ma perché? Ok, capisco il dispiacere, capisco una cosa quell'altra, però ma queste reazioni non, io poi impulsiva come sono avrei ritirato le stesse cose per andare per casino, però insomma quando vedi che c'è gente che sta lavorando, che sta facendo di tutto per cercare in un modo o nell'altro di recuperare un concerto, mi è sembrato veramente fuori luogo, però ripeto, ognuno reagisce un po' nella sua maniera, ognuno però si è un'altra anche. Cosa che mi ha così lasciato senza parole, gli In Flames, beh, lì via, sono scappati, hanno mandato il loro tecnico sul palco a dire che il concerto non si poteva fare, loro no, loro no, avevano, secondo me avevano un po' paura. Ognuno doveva prendersi le proprie responsabilità. Invece Slipknot, singolo nuovo, lo ascoltiamo tra pochissimo, l'ho tenuto in serbo proprio perché sapevo che arrivavi tu. Grande, grande. Vedi che io ti voglio bene, un per questo c'è. Hanno le maschere nuove, questo non lo sapevi, però maschere nuove, leggermente cambiate, più moderne, un album che uscirà quando? Tra poco, sì, tra poco, tra poco, un tour che li porterà anche in Italia, tra l'altro il famoso è Unholy Alliance Chapter 3, perché sì, questo è il terzo. I Slipknot saranno gli headliner questa volta, perché un paio di edizioni fa, la seconda o la prima, hanno suonato ma non erano appunto il gruppo principale, mentre invece questa volta il 19 novembre al Palace Sharp di Milano ci saranno Slipknot, ci saranno di supporto, attenzione Machine Head, okay, e ci saranno anche Children of Bodom, anche Children per loro ci sarà un nuovo album. Per Machine Head invece è un'occasione per recuperare diverse date europee che ahimè ai tempi hanno dovuto cancellare. Tra parentesi, tu non lo sai ancora, ma noi siamo io e te invitati settimana prossima ad ascoltare il nuovo album degli Slipknot. Sì. Però non so, come direbbe il mio vicino di casa, Ciumbia. Ciumbia, non so se ci sarai o dove sarai, però la buona Barbara Francone ti manda, anzi vuole la tua mail proprio per mandarti questa cosa. Che carina. Io mi ricordo un piccolo aneddoto sugli Slipknot, ho detto a Claudia che è andata a vederli un po' di volte, ha lavorato per loro anche all'estero, lei seguiti un po' all'estero, ho detto guarda, io per il mio giardino volevo la tuta degli Slipknot e io ho dato anche qualcosa tipo 100 o 50 euro, una cosa del genere. E torna Claudio e gli ho detto comprami la tuta degli Slipknot, la uso per imbiancarvi. No, No, non c'era la tuta, non c'era. Eh no, perché i tuoi soldi li ho usati per pagare il taxi che ti portava da Heathrow dall'aeroporto. È vero, so che ho avuto costa, un piccolo disguido tecnico, non avevo in quel momento dietro dei liquidità, soldi. Detto, ma allora usiamo detto, i soldi ma del Garavelli. Guarda un po', ci sono i soldi della tuta, a parte che non era nemmeno disponibile la tuta. Ci ho provato. A meno che non ti avessi preso direttamente una tuta ufficiale di una delle band. Vabbè, però questo era un piccolo... Me li ha ridati, state tranquilli, me li ha ridati. Sono stato bravo. Sì, sì, mi sembra. Vabbè. Ah, sì, sì, te li ha ridati, sì, certo, certo. Il nuovo singolo degli Slipknot si intitola All Hope Is Gone ed è questo che andiamo ad ascoltare. Il titolo è All Old. Ce la fai? Is gone. Ce la faccio. Sì, sì, ce l'ho fatta, hai visto? Io tra l'altro, io non ce la faccio. Io invece ho elencare i concerti, ma vedi, questa è sempre stata la mia lacuna. A proposito di lacuna, salutiamo anche Lacuna Coil. Sì, sì. Cristina e tutti, se sono all'ascolto, se capita, eccetera, li salutiamo ben volentieri. Sono a Milano. Ho sbagliato. Perché avevo segnato diversi concerti da segnalare, da consigliare un po' agli ascoltatori. Ho fatto casino tra la Loli Alliance, quello degli Slayer, con invece il concerto degli Slipknot, che non è la Loli Alliance. Mettiamo le cose a posto. Allora, quindi... Slipknot, ma ci ne è del Children of Bodom, il 18 novembre per la Sharp Milano. E non ha un nome? Mentre, no. Ok, non ha un nome questo. Gli amici di Gravelli, vogliamo chiamarlo. Gravelli's Friends, okay. Gravelli and Friends. And Friends. E mentre invece l'Unholy Alliance arriverà con gli Slayer, attenzione, attenzione, il 14 novembre al Palace Sharp di Milano. Ottime band di supporto, perché sì, ogni tanto capita magari che ci sono delle band, magari una non te ne piace. Invece in questo caso devo dire che iniziamo con gli Amon Amart, che dal vivo sono spettacolari. Poi ci sono i Mastodon, anche loro numero uno. Trivium, lo sai, i miei piccolini, che hanno passato l'estate in studio, quindi torneranno con il nuovo album. E poi gli Slayer, non devo aggiungere nient'altro. Questo è l'Unholy Alliance, 14 novembre, Palace Sharp, Milano. Abbiamo messo le cose a posto, hai citato un nome, un gruppo, che sono i Mastodon, sì, quindi spiega sì, tu sì, che cosa, come mai questa scelta. Ma perché io li ho visti la prima volta anni fa, in occasione, non del Gods of Men, non ricordo, poi sono tornati con i Tool, e per diversi mesi nessuno ha parlato di questa band, oppure in pochi. E secondo me sono veramente molto molto molto bravi. Dal vivo, fino a quando sono sobri, spaccano. Poi dopo li perdi. Ma guarda quante band, ma quante band fanno così. Devi parlarci fino a quando sono sobri, Lo so. Perché poi tu dici non solo le band, anche i DJ. Bravo Gravelli. A proposito di DJ set, vogliamo ricordare questo appuntamento molto importante. Venerdì 18 io e Claudia, proprio sì, noi due, saremo al Gens di Ponsacco, in provincia di Pisa, all'aperto, quindi vi aspettiamo con l'off, portate anche l'autanna, esatto, è completamente all'aperto. Ci saranno tutti gli amici, io spero una parte degli amici della Rock Family, e chi vuole venire a divertirsi. Tra l'altro la buona notizia è che Gravelli pagherà la cena per tutti, ecco, certo, quindi lascio tutto il mio cachet della serata. Siamo a posto, faccio prima stare a casa. Allora i Mastodon li abbiamo già in sottofondo, quindi io li farei ascoltare, perché questa canzone è molto bella. Abbiamo saltato anche l'intro, mannaggia che merita. Sleeping Giant. Yeah. siamo addirittura d'arrivo, purtroppo sono 21:25, il tempo di tutti i saluti è volato via, hai visto? Volato. Dicono tutti così, sembra lungo, poi alla fin fine il tempo vola e passa. Come dicevano anche le tue ex fidanzate, le cose belle durano poco, insomma. Vabbè, cosa vuoi fare? Ormai l'età è l'età, cara Claudia. Ma Gravelli, ad arrivare così alla tua età. Abbiamo ancora, hai un minuto e mezzo, quindi cerca devo di... fare i ringraziamenti. E invece di prendere per i fondelli me, cerca di salutare tutti gli amici e le amiche che ti hanno seguito, ti hanno mandato messaggi, eccetera. Guarda, tantissimi questa sera e vabbè, ringraziamo ovviamente la Rock Family, presentissima. La mia prima esperienza con la webcam, devo dire, a saperlo, oggi sembra un po' una gelataia, non mi sono accorta di essere vestita un po' tipo quelli del pronto soccorso di ER. Ringrazio anche tutti quelli che hanno scritto tantissimi messaggi, mail, sms, tantissimi ascoltatori, eccoli. Che si... C'è anche Brutus. Hai visto? Che riprovo dopo diversi mesi ed è bellissimo, Peccato che sia finita così in fretta. Adesso se vuoi piango anche qui. No, ci sono le vacanze, c'hai i metalli, che ci sono tante cose, è importante rimetterti a posto, in forma. Sì, dopo i metalli cascata una vacanza di quelle proprio relax. Canarie? Non lo so. Quando scendi devi attaccare le palme per la Fuerteventura oppure... Magari. Ho intenzione di fare una cosa veramente da un po' da anziana, quale io sono, quindi relax più totale, delle sane e lunghe dormite, anche perché gli ultimi mesi tra tutto quello che è successo sono stati parecchio pesanti e riprendere anche a lavorare così intensamente dopo tutto è stato da una parte sicuramente positivo, perché non pensi al mese di maggio, dall'altra non sei fisicamente al massimo e quindi è stato un po' così, ma va bene, non c'è problema, adesso una bella vacanza, poi a settembre si penserà al futuro. Brava Claudia, intanto una bella una bella beauty farm e via. Io ti ringrazio, ci rivedremo sicuramente. Ringrazio insomma tutti quelli che ci stanno dando questa bellissima opportunità di ritornare al microfono. Quindi domani sera ci sarà il buon Maurizio Favolisi, un'altra puntata speciale con tanto buon sano rock and roll. No, il 21 non ci sono, sono passato. Quando ci sarà Max De Rio. Noi ci sentiamo domani sera, ancora con Linea Rock, qua su Radio Lombardia. Questi sono gli Airborne con Running Wild. Ciao, ciao! Ciao Claudia!